Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La stampa in 3D sta creando le tecnologie per stampare addirittura organi umani. Non è fantascienza. Quindi dalla classica stampa di oggetti materiali si passerebbe alla stampa di tessuti umani. Questa tecnica si chiama bioprinting e costituisce la frontiera della medicina. L'inchiostro di questa stampante, se così possiamo chiamarlo, è un liquido a base di cellule umane che diventano qualcosa simile a un tessuto attraverso una biostampante che opera con procedure molto complesse. Naturalmente siamo molto al di là dell'idea di stampante che noi abbiamo. Mentre noi guardiamo il cielo e pensiamo dove trascorreremo le nostre vacanze, come passare il fine settimana, o pensare che abbiamo un'unghia incarnita o che abbiamo mal di testa, qualcuno sta già pensando a ristampare parti del corpo umano con stampanti a 3D o qualcosa di simile. Questo è un video preso da YouTube dove una persona spiega la procedura, ma non è del tutto peregrina. Vi farò sentire questa mattina persone che stanno studiando realmente la possibilità di stampare tridimensionalmente pezzi di ricambio. Detta così può sembrare azzardata la cosa, ma diciamo il punto d'arrivo è questo: pezzi di ricambio per eventuali nostre defaillance. C'è qualcosa che non funziona, qualcosa che non va, qualcosa che va sostituito. Anche il termine di protesi cambia completamente. La protesi, che in un primo senso, in un primo tempo, era vista come una sorta di succedaneo pietoso di ciò che mancava, quindi si costruiva bene o male con materiali diversi rispetto al tessuto umano, una mano, un braccio, qualcosa che mancava, un occhio di vetro, e poi si metteva. Poi naturalmente c'è stata un'evoluzione, per protesi si intende qualcosa di molto più raffinato, molto più perfezionato, che non necessariamente deve riprodurre la parte umana mancante, anzi può essere un potenziatore dell'arto mancante. Pensate le gambe in fibra di carbonio di Pistorius, al tempo che era un eroe, l'uomo senza gambe correva più veloce di altri uomini perché aveva delle protesi, pensate per correre più veloce. L'evoluzione umana già aveva un suo gradino ulteriore e ci riprogettavamo in corso d'opera. Adesso siamo con il bioprinting, questa nuova tecnica, a qualcosa che sembra già di farci vivere nell'epoca che noi consideriamo fantascientifica. Avete presente i replicanti di Blade Runner, i progetti in carne, persone tali quali come noi, addirittura con una loro coscienza, con una loro nostalgia per i ricordi che avevamo in loro messi. Beh, non è poi qualcosa che è così lontano. Nella mente fervida di Philip Dick nacque, come appunto, un'idea della riprogettazione del corpo umano, e oggi potrebbe essere una realtà. Può l'artefice ritornare su ciò che ha fatto? Perché? Quale sarebbe il tuo problema? La morte. La morte? Beh, questo temo che sia un po' fuori della mia giurisdizione, tu... Io voglio più vita, padre. Abbiamo i nostri limiti. Produrre un'alterazione nella evoluzione delle strutture di una vita organica è fatale. Un codice genetico non può essere corretto una volta stabilito. Siete stati fatti al meglio delle nostre possibilità. Ma non perdurare. La luce che arde col doppio di splendore brucia per... Nicola Fazio, buongiorno. Sì, buongiorno, io lo sento benissimo. Ecco, è un ricercatore dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Ho letto sul redattore sociale una sua intervista. Ci spiega sinteticamente quanto il bioprinting rappresenti un punto di partenza per arrivare poi al replicante di Blade Runner? No, beh, forse... È una forzatura, però si comincia così. È una forzatura. Però nell'introduzione io ho sentito che già parlava di protesi evolute, ma diciamo che con la stampa 3D in generale già le protesi, e parliamo di protesi, quindi con niente di vivente dentro, già si possono fare e sono una realtà. Io ho visto una calotta cranica in plexiglass bellissima fatta con una stampante 3D. Quella si fa già. Anche la faccia ricostruita di quel signore e la mascella di quell'altro signore che ho presentato sempre al congresso. Invece c'è tutto un altro discorso riguardo ai tessuti viventi, tessuti prodotti proprio con cellule viventi del paziente. Quel discorso lì potrà portare in futuro alla riproduzione in laboratorio di tessuti prima e in seguito anche organi viventi. Diciamo, i tessuti già li state producendo, perché esiste, diciamo, la possibilità di avere, diciamo, delle colture in cui diciamo, si rigenerano delle parti di tessuto? Assolutamente sì, però è tutto un campo ancora sperimentale, non applicato all'uomo. Notizie di due settimane fa sono i cinesi che hanno riprodotto il rene, per esempio. Io sono molto affezionato a un articolo in cui viene riprodotta una cartilagine all'interno di un'altra cartilagine. E questo secondo me è una tecnologia che in 2 o 3 anni si potrebbe arrivare a sviluppare, una cartilagine vivente strutturata in questa maniera. E questo però viene fatto, diciamo, in laboratorio, mettendo, diciamo, innestandolo. Io ho visto un orecchio fatto sulla schiena di un topo, non so se è la stessa cosa. No, secondo me era un fake, quello dell'orecchio. Sì, l'ho visto anch'io, mi ha fatto anche un po' ridere. Quindi però a questo punto, in questo articolo lei spiega, dice... Un domani con una stampante particolare noi potremmo mettere al posto, diciamo, della materia sintetica, oggi è un filo di plastica o di materiale sintetico che passando e ripassando, seguendo un progetto sopra un piano, costruisce una parte, un componente di un meccanismo importante, un oggetto, un portacenere, quello che uno vuole. La stessa cosa potrebbe avvenire con questa materia prima che fornite voi? Anche se, come ha detto lei, alcune dichiarazioni possono essere un po' una forzatura, nel senso bisogna rispettare l'ordine biologico che è dato prima a un tessuto, poi a un organo e anche le sue funzioni. Gli organi sono parecchio complicati, bisogna che la scienza, prima ancora della tecnologia, arrivi a spiegare come sono organizzati alcuni organi a livello di tipologie cellulari e a livello di organizzazioni tessutali. Però... vero è che per i tessuti, come la cartilagine, secondo me non siamo molto lontani a riprodurli con una stampante 3D. Ma di cosa si alimenta? La testina che si muove sulla stampante 3D, poi avremo un esperto, ci spiega esattamente come funziona. Con cosa sarebbe alimentata? Quale sarebbe la materia prima che poi costruisce questa cartilagine? Poi mette dentro lei il progetto fatto con AutoCAD, fatto di una cartilagine, lui gliela ricompone e gliela dà. Ma è una cartilagine vivente a tutti gli effetti. Può arrivare a fare, in realtà sul topo l'hanno già innestata e a livello di ricerca di base si fa già. Cos'è composta la cartuccia? Materiale liquido, perché... Cioè al posto dell'inchiostro di una cartuccia, cosa si mette? Ecco, per dire. L'inchiostro della cartuccia, diciamo che ci sono 2 testine, già questi inchiostri vengono chiamati bio-inchiostri, diciamo che 2 testine fondamentali sono una che depositerà le cellule espanse in un bioreattore, perché ne servono tantissime, si parla di 37.000 cellule a goccia, e nell'altra testina... verrà depositato il bioinchiostro, il biopolimero che può essere di origine naturale o di origine sintetica. L'importante è che sia completamente biocompatibile e anche in un certo senso bioriassorbibile, nel senso che le cellule devono essere in grado di eliminare questo polimero piano piano depositando il tessuto umano. Una specie di addensatore, come si mette, diciamo, la colla di pesce per fare un budino, ci si mette questa cosa per tenere insieme le cellule. Sì, sa, il collageno, c'è un brevetto della Fraunhofer per esempio che con i raggi UV al momento della deposizione viene solidificato. Ora non immagini certo la durezza di un osso, però quello che può essere, sì, un budino molto denso. Oddio, non mi piace parlare con questo. Però dobbiamo far capire a chi ci ascolta di cosa si tratta, se no sembra pura fantascienza. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Storico e filosofo della scienza. Vedi, siamo arrivati a parlare di qualcosa che avevamo soltanto allucinato. Cosa ne dici di questa possibilità e soprattutto quale barriera andrà a infrangere? Che poi sappiamo che la scienza, una volta ti dicono si fa sul topo, si può andare avanti, cominciamo dalla cartilagine, fatta la cartilagine è fatto l'essere umano intero. Già mi vedo l'uomo sulla stampante che lo programmi la sera e la mattina dopo ti viene e ti porta il caffè già fatto. Beh, sicuramente come abbiamo appena sentito, l'evoluzione nell'ordine della ricerca scientifica e dell'applicazione tecnologica ha consentito di proprio ricontestualizzare lo stesso oggetto protesi, se tu pensi dal famoso alluce del Cairo ritrovato in quel sito egizio di circa 3.000 anni fa, in cui si era riprodotto una delle prime protesi, insomma l'alluce di una donna con legno e pelle, all'idea che abbiamo sentito adesso, non è solo un'evoluzione di materiali, ma attraverso l'evoluzione di materiali potrebbe cambiare la vita quotidiana, per non dire lo stesso concetto di umano, tanto è l'integrazione tra ricerca tecnica e scienza. Quindi è indubbio che queste nuove frontiere metteranno in discussione non solo lo stato dell'arte, della medicina, dell'archeologia attuale, ma anche non poche categorie culturali su cui si basa la nostra idea. I cosiddetti concetti bioetici, se l'uomo è un progetto che tu puoi riprodurre, io dico per paradosso, ma visto che ci avviciniamo a qualcosa che si avvicina molto alla soluzione, alla attualizzazione di una profezia che si avvererà, non esiste un grande architetto che fa questo progetto, possiamo applicarci pezzo per pezzo, rifarci le parti che ci servono. Certo, non sarà tutto possibile, ma lavoriamo già a livelli molto profondi per capire e intercettare i segnali elettrici che vengono dal nostro cervello. Cominciamo a rifare una cartilagine, da una cartilagine a tessuti più complessi, è questione di specializzare il principio. Cominciamo a dire che siamo anche noi in fondo un bel progetto che funziona, perfettibile, ma riproducibile. Sai, l'idea che l'uomo non sia un progetto immaginato e realizzato da un grande architetto ce l'ha già spiegato Darwin con la teoria dell'evoluzione. Se siamo qui e siamo fatti così, è in qualche senso il prodotto del caso che la biologia. Non siamo sempre stati così, ecco. Esatto, non siamo sempre stati così, lo siamo diventati nel tempo anche grazie al caso che ci ha consentito di arrivare ad essere quello che siamo. Uno. Due, adesso liberatici da questa mitologia, possiamo capire che in quanto macchine biologiche, consentimi questa espressione che potrà far rabbrividire qualcuno, possiamo artigianalmente riaggiustarsi sulla base di quella stretta alleanza tra scienza e tecnica che consentirà di riprogrammare per esempio un'anzianità più sostenibile, perché è vero che la nostra aspettativa di vita è aumentata, ma non la giovinezza, viviamo di più e saremo tutti più vecchi, e questo sarà anche un problema sociale da gestire anche attraverso le nuove risorse della scienza e della tecnica. Allora senti, Sara, fermiamoci un secondo, do l'informazione del traffico, che abbiamo in ascolto un artigiano che poi ci spiegherà qualcosa di più, ci darà cognizioni più tecniche rispetto a questi oggetti che possono riprodurre tutto, ma tutto al punto tale che possono riprodurre anche parti di noi stesse, o che non ci soddisfano, che non ci piacciono come sono fatte, non sono funzionali, non sono adatte, o che si guastano e forse le vogliamo nuove. Melog, cronache meridiane. Volevo parlarvi in realtà del futuro dei trapianti del cuore, che in realtà si chiama bioprinting. Infatti, in futuro, per essere specifici, 10 anni, tra 10 anni si potrà stampare un cuore nuovo con una specie di stampante 3D per organi. Verrà prelevato dal paziente la base. Non voglio nemmeno immaginare la fantasia umana e la malizia umana, quali organi potrebbe pensare di ristampare con la stampante in 3D. Però il bioprinting, che se ne comincia a parlare adesso, è materia di fantatrattazioni su YouTube, è oggetto di studio di un importante serio ricercatore di un istituto ortopedico noto come quello del Rizzoli di Bologna, dove realmente fanno culture e cominciano a pensare che parti, cartilagini, tessuti possono essere comunque coltivati. Da essere coltivati a essere stampati ci vorrà qualche tempo, ma ci si sta lavorando. Ma alla base di tutto questo c'è un oggetto di cui abbiamo già parlato in questa trasmissione, che rappresenta un po' la punta di svolta, è l'utensile che ha dato un cambio radicale a quello che era la concezione della realtà digitale, una realtà fatta soltanto di bit, come diceva il profeta Negroponte: non ci saranno più gli atomi, ci saranno i leggerissimi bit. Ma oggi il valore di ciò che avviene in rete, della condivisione e della messa in comune dei talenti e delle esperienze, riporta nuovamente a una materia, a qualcosa che si costruisce, a degli oggetti, e a lavorare a questa ultima svolta epocale del mondo digitale sono i makers, sono gli artigiani che lavorano proprio con stampanti 3D. Un rappresentativo personaggio di questo mondo è Carlo Maria Curinga, che abbiamo sentito più volte. Carlo Maria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ha fondato il Fab Lab Ventura di Milano, con laboratorio di fabbricazione con tecnologie digitali. Ti eri mai applicato, mai pensato che le macchine che stai usando, stai collaudando, stai sperimentando, stai facendo evolvere, potranno un giorno essere usate? Ti potrebbe essere chiesto di costruire un pezzo, un membro umano? Ma allora, diciamo che innanzitutto dobbiamo distinguere tra che tipologia di pezzo che poi dovrà essere utilizzato dal corpo umano, nel senso che se si parla di tessuti viventi, La stampante 3D utilizzata per realizzarlo condivide solo la filosofia, no? Con i macchinari che usiamo invece nel mondo dei maker, almeno attualmente. Se invece parliamo di protesi, assolutamente sì, è già una realtà, ci sono già progetti open source, quindi aperti a qualsiasi contributo di persone che vogliono dare una mano per realizzare protesi di braccia piuttosto che mani robotiche. C'è un bellissimo esempio di un padre americano che con una spesa che paragonata alle protesi professionali piuttosto ridotta, si parla di circa 1.000-1.500 dollari, è riuscito a stampare in 3D, aggiungendo poi la parte di motorini ed elettronica, sempre tutto piuttosto comune al mondo dei maker, un braccio robotico manovrato da impulsi che vengono misurati dalla contrazione dei muscoli sul braccio del figlio che non aveva più questo arto. Quindi si è riusciti già ad avere una protesi che consente al bambino, senza spendere le decine di migliaia di dollari che ovviamente danno un risultato migliore, comunque a fargli impugnare degli oggetti, a girare delle leve piuttosto che altre, quindi dargli un minimo di mobilità. E questo avviene attraverso un meccanismo che è, diciamo, la chiave più interessante e più suggestiva della contemporaneità. Io ricordo che negli anni 70, fine anni 70, inizio anni 80, un performer australiano, Stellark, faceva delle grandi rappresentazioni, anche lui profetizzando quello di cui oggi stai parlando te, si era fatto innestare un terzo braccio robotico, si faceva filmare, si ingeriva dei piccoli meccanismi dicendo che il corpo umano è obsoleto, va riprogettato, ma lo diceva come operazione d'arte d'avanguardia. Oggi è il meccanismo generale della condivisione che fa sì che metti un'idea a disposizione degli altri che, come una comunità appunto di artigiani, il termine non è dispregiativo, ma anzi nobilita altamente il lavoro che state facendo, collaborano tutti a aiutare un padre ad avere una protesi efficace, funzionale, migliorabile, aperta, che chiunque può migliorare e riprodurre, quando altrimenti, magari andando sul mercato, non se la poteva permettere perché hanno costi altissimi. È questa la filosofia. Assolutamente sì, tra l'altro piccolo particolare, ma non così piccolo, poi se si ragiona sul suo impatto, è che nel momento in cui la comunità migliora il progetto, il padre è in grado di smontare momentaneamente la protesi al figlio, aggiungere il pezzo modificato che gli dà una miglioria e rinnestarla senza dover riacquistare l'intero pezzo o ricostruirlo. Quindi un upgrade continuo anche della protesi o dell'oggetto. Esattamente, che si associa bene al termine di replicante, no? Quindi lo stesso oggetto è in grado di evolversi quasi in autonomia, no? Nel senso che mano a mano è lo stesso bambino che, una volta acquisite le conoscenze del padre, può migliorare il suo stesso braccio robotico. Stefano Morigi, cosa ne dici di questa evoluzione dello spirito della rete, che nasce come qualcosa di detestabile, clandestino, in cui si coltivavano gli istinti peggiori dell'umanità? Sembra quasi che in rete ci fosse soltanto pirati e maniaci sessuali. Oggi vedi che la rete svolge delle funzioni di carattere sociale, collaborativo, filantropico, se usare questo termine che è antico, che a me non piace per niente, che però si muovono come avanguardia e anche abbastanza poco coperte dal sistema dei media in generale. Sai, la scienza moderna nasce come rete di collaborazione, come inevitabile collaborazione e cooperazione tra scienziati che confrontano e mettono in comune le loro acquisizioni. E questo è un esempio in cui la scienza e la tecnica possono trovare nella rete di cui tu parli un ulteriore spazio su cui confrontare, migliorare, migliorarsi nella realizzazione di prodotti che possono poi essere messi al servizio della comunità. E indubbiamente la frontiera, perché ancora di frontiera si parla, di tessuti e di organi cellularizzati, cioè di questi tessuti ingegnerizzati di cui abbiamo sentito parlare, è il nuovo punto d'incontro tra il biologico e il sintetico, su cui è bene cominciare a parlare prima che divenga realtà, per prepararsi culturalmente a una nuova frontiera, a un nuovo pensiero necessario, a una nuova idea di umanità, di sanità e anche di vecchiaia, senza lasciarci prendere, una volta che sarà effettivamente realtà, da falsi timori e anche false speranze. Nicola Fazzi, ultima domanda, ricercatore dell'Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna. Quanto tempo ci vorrà per avere il primo tessuto, la prima cartilagine che uscirà da una stampante 3D, secondo lei? Allora, cartilagine per me non così tanto. Per me si parla di 3 anni, massimo. Per parti più complesse bisogna aspettare un po'. Ma l'osso per me si potrebbe anche, potrei dare anche lo stesso termine. Il problema è che mancano i biomateriali per la biostampante dei biomateriali così rigidi. Quindi l'unico problema è lo studio del biomateriale. Una volta trovato il biomateriale si potrà stampare ancora di più del nostro gruppo. Grazie Nicola Fazzo, grazie Riccardo Maria Curinga, grazie Stefano Moriggi. A lunedì.